Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Se non vi piace questa Europa, rendetela migliore. Trovate il modo per rafforzarla al suo interno come sulla scena internazionale, ma non voltatele le spalle. Questo è l'appello che lancia dalle colonne del Sole 24 Ore il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, in vista delle prossime elezioni dell'Europarlamento. Tra 8 mesi, scrive nel suo intervento oggi appunto sul nostro quotidiano, gli elettori dell'Unione Europea saranno chiamati a giudicare quanto abbiamo realizzato negli ultimi 5 anni, anni segnati dalla crisi economica, nei quali però l'Europa ha saputo battersi. La Commissione Europea questa settimana ha adottato il programma di riforma del mercato delle telecomunicazioni, il programma definito il più ambizioso degli ultimi 25 anni, lo ha annunciato lo stesso Barroso, di cui abbiamo parlato nel discorso sullo Stato dell'Unione del 2013. E Nelly Kroes, vicepresidente e commissaria responsabile per l'agenda digitale, ha detto: con la normativa di cui stiamo parlando, la Commissione Europea dice sì alla neutralità della rete, sì agli investimenti, sì ai nuovi posti di lavoro. Spiegazione dalla voce di Roberto Viola, direttore generale della direzione Connect della Commissione. Sentiamolo. Dal 1° di luglio 2014 il consumatore non pagherà più quando è chiamato all'estero. Per chi chiama, ovviamente è sempre stato così, la tariffa nazionale, per chi riceve non pagherà più nulla, quindi non ci saranno più shock quando si riceve la chiamata dei propri parenti e propri amici quando si è all'estero. Il secondo passaggio sarà più graduale, comincerà sempre dal 1° luglio 2014 e si completerà dal 1° luglio 2016 e permetterà a chiunque abbia un piano tariffario di qualunque tipo di usarlo in tutti i paesi dell'Unione Europea. Se uno ha un gigabit di dati che ha acquistato per esempio in Italia, questi dati possono essere utilizzati in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'altra novità è quando si chiama un altro paese europeo col proprio telefono di casa o col telefonino dall'Italia. Il prezzo sarà simile a quello delle chiamate nazionali quando si chiama chiamata fissa e sarà simile alla cosiddetta eurotariffa, quindi 19 centesimi, quando si chiamerà col telefono mobile. Oggi chiamare un altro numero europeo è molto molto caro. Perfetto, naturalmente ecco, questo è un tema importante nelle tasche di ciascuno, letteralmente, visto che il telefono di solito lì lo portiamo, ma c'è anche tutto un tema che riguarda la rete. Si parla innanzitutto di tutela della neutralità della rete, cosa significa? Beh, significa che nell'accesso a internet ognuno deve essere libero di fare quello che ritiene dover fare. Per esempio, se si vuole utilizzare l'applicazione che tutti un po' ormai conoscono, Skype, per telefonare via internet, non può esserci il blocco di un operatore. Oggi molti piani tariffari in Italia, quelli soprattutto a basso costo, bloccano questa possibilità ai cittadini. Quindi il primo importante passo è che internet deve essere veramente aperto e questi blocchi non possono più esserci. E anche i bandi di concorso devono, quelli europei, devono essere aperti a tutte le lingue. Questo ha stabilito la Corte, rispondendo a una protesta avanzata proprio dall'Italia rispetto all'uso di tedesco, francese e inglese in maniera esclusiva appunto per l'utilizzo dei bandi di concorso. Sentiamo. Vittoria bis dell'Italia nella guerra linguistica contro Bruxelles. Il Tribunale Europeo del Lussemburgo ha annullato ben 3 bandi di concorso comunitari perché pubblicati solo nelle lingue forti dell'Unione, inglese, francese e tedesco. Per comprendere la querella occorre tornare agli anni 2008-2009, quando l'Unione Europea bandì concorsi per amministratori e medici in sole 3 lingue. Roma, che nella questione del trattamento paritario tra gli idiomi europei ha fatto una bandiera, presenta così l'ennesima istanza a Lussemburgo, che ieri le ha dato ragione. Un candidato la cui lingua materna non fosse stata una delle 3 usate nei bandi, avrebbe dovuto procurarsi la gazzetta ufficiale in una di queste lingue prima di decidere sulla propria candidatura, rileva il tribunale, trovandosi di conseguenza svantaggiato sia nella comprensione che nella preparazione del concorso. Una disparità di trattamento vietata dalla Carta dei diritti fondamentali. La vittoria italiana bissa, neppure un anno di distanza, un altro successo del nostro paese, quando un'analoga sentenza della Corte di giustizia stabilì come la pubblicazione in 3 lingue dei bandi costituisce costituisse discriminazione. La sentenza di ieri non inficia i risultati di quei concorsi che restano validi, costituisce però un precedente che imporrà all'Unione Europea la pubblicazione integrale dei bandi in tutte le lingue comunitarie, sempre che Bruxelles non impugni la decisione di ieri. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, e prima di lasciarci vi ricordo che lunedì saremo in diretta da Trieste. L'appuntamento è importante, l'ultimo di una serie di dialoghi con i cittadini, un percorso che ha attraversato di fatto tutto l'anno. Lunedì l'incontro finale, la sintesi del dialogo appunto tra cittadini e istituzioni europee con la vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding. E per ora intanto è tutto, un saluto da parte mia, l'augurio di un ottimo fine settimana. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.